America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. The United States is suspending its participation in bilateral channels with Russia. Gli Stati Uniti hanno rotto ieri con la Russia sulla Siria, non ci saranno missioni comuni. Questo è preoccupante, significherà più migranti e rifugiati. Quello dei rifugiati è il tema esplosivo del nostro tempo per l'Italia, soprattutto dall'Africa. Di questo voglio parlarvi, sentiamo. Refugees and migrants are not to be seen or burdened. Ban Ki-moon, il segretario generale dell'ONU, verrà in Italia, sarà in Italia domani. Al centro, secondo me, del dialogo, delle discussioni, ci sarà, fra le varie turbulenze internazionali, ci sarà il problema dei rifugiati, perché il problema dei rifugiati ci riguarda direttamente e forse è la cosa di cui dobbiamo occuparci con maggiore attenzione. Preoccupa l'Europa, ha tra l'altro un impatto forte sulla politica europea e bisogna occuparsene. Sentiamo cosa ha detto il presidente del Consiglio Matteo Renzi proprio a New York, ai margini dell'Assemblea Generale dell'ONU, alcuni giorni fa. Questo disegno organico nella questione migrazione è per noi il piano per l'Africa. Ma se l'Europa non ha intenzione, non ha interesse, non ha desiderio di fare la propria parte, faremo da soli. Ecco Renzi che lancia una sfida. Il problema dell'Africa è centrale per l'Italia. In effetti noi abbiamo nella nostra popolazione, che già sono residenti in Italia, 900.000 africani. Quest'anno ne aspettiamo, diciamo, fra i 150 e i 160.000 per la fine dell'anno. Ecco, avete sentito che Renzi ha lanciato una sfida che l'Italia dovrà fare da sola perché l'Europa è assente. Non abbiamo il contenuto. Ho con me ai microfoni di America 24 il ministro degli esteri italiano Paolo Gentiloni, al quale giro la domanda. Buongiorno ministro, intanto. Buongiorno, buongiorno a voi. Come possiamo andare da soli in Africa? C'è un progetto, c'è un piano? Se ne parlerà col segretario generale dell'ONU? Anzitutto noi siamo molto contenti del fatto che quest'anno, se c'è un tema che ha caratterizzato l'Assemblea delle Nazioni Unite, è stato il tema delle grandi migrazioni, sia per iniziativa di Ban Ki-moon che per iniziativa del presidente americano Barack Obama. Diciamo la verità, ci siamo sentiti soli sul tema delle migrazioni come italiani per molti anni. Ora siamo un po' meno soli, ma certamente resta su di noi una grande responsabilità e la responsabilità si esercita soprattutto nei confronti dell'Africa, perché è vero che gran parte dei migranti che vengono verso le nostre coste arrivano dall'Africa, ma è anche vero che l'Africa non è solo un rischio, una minaccia, un insieme di problemi, ma finalmente dopo tanti anni è anche una grandissima opportunità, quindi l'Italia guarda all'Africa non solo per tamponare i flussi migratori, ma soprattutto come una grande, grande opportunità di cooperazione e di sviluppo. Tra l'altro c'è un rinascimento africano, ci sono paesi africani, la stessa Costa d'Avorio, ma altri paesi che crescono al ritmo del 7-8% all'anno, dunque c'è già una piattaforma su cui costruire. Come possiamo costruire noi? In che modo? In termini concreti? Ci sono alcune grandi priorità. Anzitutto c'è una straordinaria domanda di energia e di energie in particolare rinnovabili, infrastrutture naturalmente, e poi agricoltura. Mettiamo l'Africa in condizione di riprendere il controllo sulla catena del valore alimentare e l'Italia è forse al mondo il paese più avanzato nel fornire macchinari per tutto il ciclo alimentare, dalla produzione agricola alla commercializzazione, passando per i vari step intermedi. Ecco, come possiamo finanziarli? Li finanziamo, non so, con la SACE e mobilitiamo i capitali? Abbiamo un problema di bilanci, di conti. Come finanziamo questi progetti? Che cosa possiamo fare? Quali sono degli esempi concreti per questo piano del Presidente del Consiglio Renzi? Beh, il governo Renzi, e io ne sono molto fiero, ha innanzitutto raddoppiato in 3 anni i finanziamenti alla cooperazione e ha interrotto quindi una vorticosa discesa che certo non faceva onore al nostro paese. Noi adesso diamo circa il 48% delle nostre risorse di cooperazione all'Africa. Però non credo che dobbiamo sfuggire alla necessità che a questo lavoro che fa il governo, che fanno le risorse pubbliche, deve sommarsi naturalmente un impegno del mondo dell'impresa. E credo che il mondo dell'impresa italiana gradualmente sta rendendosi conto di quanto la nostra posizione geografica, oltre ad essere un problema, è anche un grande vantaggio, perché essere proiettati sul Mediterraneo rende il nostro paese un paese avvantaggiato rispetto ad altri per cooperare con l'Africa, e di qui grandi investimenti di Eni, Enel, delle grandi imprese che fanno infrastrutture, ma anche direi sempre più della comunità industriale. Gli esempi possono essere innumerevoli, naturalmente ci sono alcuni paesi che hanno grandissime prospettive, pensiamo a un paese come l'Etiopia, un paese che ha 100 milioni di abitanti, che ha ritmi di crescita tra l'8 e il 10% e che vede l'Italia impegnata da anni, ad esempio, nella valorizzazione del caffè, del pomodoro, ed è una valorizzazione importantissima perché lì nasce, e nasce in collaborazione con imprese italiane, un'intera filiera produttiva di grande qualità che sviluppa queste coltivazioni. Oppure un paese più in difficoltà dal punto di vista della sicurezza come la Somalia, che ha un bisogno straordinario di sfruttare meglio le proprie risorse ittiche, visto che le utilizza al momento solo per l'alimentazione, ma senza conservare, commercializzare, valorizzare questa produzione. Abbiamo fatto un paio di mesi fa alla Farnesina un incontro con Confindustria, la business community italiana del settore dei macchinari per la pesca e della pesca, e c'è un interesse straordinario, una disponibilità straordinaria, nonostante i rischi che ci sono ancora di sicurezza in un paese come la Somalia. Quindi le occasioni sono innumerevoli e il piano di interventi italiani è molto ricco. Ecco, la priorità resta comunque di muoversi con l'Europa. Se poi l'Europa va avanti, che messaggio vogliamo dare all'Europa? Si rafforza quello che ha dato il Presidente del Consiglio Renzi? Ma non c'è dubbio, noi saremmo felicissimi se l'Europa passasse, diciamo, dalle parole ai fatti. E l'Europa ha molto investito nella cooperazione di lungo periodo con l'Africa. Quello che noi oggi chiediamo è anche un lavoro con tempi un po' più rapidi su quelle che sono le cause più immediate della migrazione. Fatemi fare un solo esempio: se l'Unione Europea decide di destinare, e noi siamo d'accordo, 6 miliardi di euro, ripeto, 6 miliardi di euro per aiutare la Turchia nella gestione dei flussi migratori, beh, credo che deve fare uno sforzo, non dico altrettanto rilevante, ma comunque rilevante anche verso i paesi africani. Quindi noi vogliamo lavorare con l'Europa, e però vogliamo anche che l'Europa da questo punto di vista sia più determinata, perché immaginare che solo alcuni paesi come l'Italia o la Grecia possano far fronte ai flussi migratori significa negare alla radice l'idea di Europa. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, ho con me sempre ai microfoni di America 24 il ministro Gentiloni. Ministro, beh, la lancia lei la canzone? Cosa possiamo lanciare? Una canzone americana, naturalmente. Ma io più che una canzone denuncio un po' la mia generazione e dico Bob Dylan. Magari la canzone sceglietela voi. La scegliamo noi. Allora la scelgo io. Bob Dylan, beh, mi sembra molto appropriata, visto che da molto tempo, da anni, da decenni, si parla di Africa e non si fa nulla. Beh, Blowing in the Wind, soffiamo nel vento, soffieremo ancora nel vento, speriamo di no. E dunque, grazie al ministro, e Bob Dylan, Blowing in the Wind. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free. Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.